humilis di cui parlava Agostino, che anche oggi è il modulo espressivo più consono a una Chiesa che vuole essere amica degli uomini e delle donne del suo tempo e per questo sceglie la via della colloquialità e dell'accessibilità. La verità cristiana, questo ci suggerisce Papa Francesco col suo modo di parlare, di predicare e di agire, non è una conoscenza raggiunta con sforzo e riservata a congreghe di iniziati, che poi la sequestrano come loro possesso. La verità cristiana, essendo soave e amorosa salvezza, come insegnava il Santo Vescovo di Ippona, per sua natura deve essere porta, offerta e testimoniata suaviter, con dolcezza, con delicatezza. E questo sia per rispetto della sua stessa natura, sia tanto più per il rispetto delle possibilità di ricezione dell'uditore affinché questi la possa accogliere. Sulla stessa via si muove oggi Papa Francesco. Egli mette l'interlocutore, chiunque sia, in una condizione di parità e non di distanza. Instaura una relazione di prossimità, stabilisce un legame di vicinanza. Le sue parole aprono, abbracciano e facilitano. Aiutano a sollevare lo sguardo da se stessi. Diventano altrettanti semi che possono fiorire nei modi più inaspettati nella vita e nelle pieghe del vissuto di chi lo ascolta, in maniera gratuita e misteriosa, come dono di grazia, fuori da ogni pretesa funzionalista. Nel novembre scorso uscì un opuscoletto sull'ABC del Papa, curato dal settimanale Vita, una ricerca analitica sulle parole e le espressioni usate fino ad allora da Francesco. Emergeva già un dato interessante, cioè che le parole di Papa Francesco fanno corpo con il personaggio, ne scolpiscono la figura agli occhi del mondo e non solo di chi crede, perché il Papa è quello che dice. Questo vale anche per i gesti e i comportamenti. Papa Francesco esprime infatti la propria corporeità in maniera naturalmente sbilanciata sull'interlocutore, nel modo di rapportarsi agli altri e alle situazioni in cui si trova, lui esce continuamente da se stesso. La sua non è una compostezza rigida, ma una flessibilità che lo vede ora immergersi in una sorta concentrazione, come quando celebra l'Eucaristia, ora a protendersi in uno slancio nel quale sembra persino perdere l'equilibrio quando si china ad abbracciare i bambini o i disabili. Ciò vale per il suo corpo, vale anche per la sua voce e tanto più per la comunicazione epistolare a lui molto cara. Non mi dilungherò ovviamente a elencare statistiche che forse risulterebbero anche noiose. Faccio solo qualche esempio. L'espressione tutto tutti, che fino a novembre contava più di 300 ricorrenze, manifesta bene la sua visione delle cose, portata a superare i recinti e ad aprire le porte e a costruire ponti. Il tutto è superiore alla parte, così recita una delle quattro suggestive formule che Papa Francesco inserisce nel quarto capitolo dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, proponendole come principi che favoriscono anche il bene comune e la pace sociale. A noi cristiani, scrive tra l'altro, questo principio parla anche della totalità o integrità del Vangelo che la Chiesa ci trasmette e ci invita e ci invia a predicare. La sua ricchezza piena incorpora gli accademici e gli operai, gli imprenditori e gli artisti, tutti. La buona notizia è la gioia di un padre che non vuole che si perda nessuno dei suoi piccoli. Un altro aspetto curioso riguarda la frequenza dei punti di domanda. Papa Francesco procede attraverso domande, pone interrogativi a se stesso e a chi lo ascolta. Con le domande conclude molte delle omelie delle messe di Santa Marta, invitando tutti ad affrontare il proprio vissuto con quello che racconta il Vangelo del giorno. Sono domande vere e non interrogativi retorici. La domanda, l'attesa, la mendicanza è il tratto proprio della nostra condizione umana e segna il cuore stesso di ogni uomo. In Papa Francesco il porre domande diventa anche espressione della sollecitudine concreta e appassionata verso tutte le persone che incontra. Alla fine di una bella conversazione con un gruppo di ragazzi del Belgio, che è stata anche teletrasmessa, Papa Francesco ha rivolto loro una domanda, aggiungendo che non era una domanda originale, ma era una domanda del Vangelo, presa dal Vangelo, ma che era la domanda giusta. Era la domanda giusta in quel preciso momento. Dov'è il tuo tesoro? Dove riposa il tuo cuore? Perché dov'è il tuo tesoro, ha detto il Papa ai ragazzi, là è la tua vita. Il cuore è attaccato al tesoro. Possono essere i soldi o l'orgoglio, oppure la bontà, la bellezza, la voglia di fare il bene. Dovete rispondere voi stessi da soli a casa vostra. Nello stesso tempo, la domanda, la posizione di domanda, fa parte di quello che Papa Francesco descrive come il pensiero aperto, il pensiero incompleto, il pensiero che non si compiace della propria autosufficienza, il pensiero che non pretende di possedere a priori la realtà. E così sfugge anche le risposte preconfezionate e fallaci di quella che lo stesso Papa Francesco, nell'intervista con la Civiltà Cattolica, ha definito come fede da laboratorio. Una fede dove si prendono i problemi e li si portano a casa propria per addomesticarli, per verniciarli fuori dal loro contesto. Per lui non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci. Camminare e andare sono altre due parole con una frequenza di ripetizione altissima, in particolare nei discorsi delle udienze quando il Papa fa catechesi. La vita cristiana in Papa Francesco è essenzialmente un camminare, un andare, un moto al luogo. E subito si trovano i verbi che sono conseguenza logica di quei primi due, uscire e seguire. L'andare per Papa Francesco non è solamente un percorso interiore, ma è un andare anche fisico, verso quei luoghi e quelle situazioni esistenziali dove conviene andare, uscendo da se stessi, non per sforzo, ma perché attirati e portati dalla grazia del Signore. Anche perché, come ha detto Papa Francesco ai bambini nella sua prima visita da Papa in una parrocchia della periferia romana, la realtà si capisce meglio dal centro, si capisce meglio non dal centro, ma dalle periferie. Inoltre, tra le parole più usate da Papa Francesco ci sono anche i verbi vedere, guardare, ascoltare e sentire, ai quali si affiancano anche dei termini negativi con cui egli identifica gli atteggiamenti dai quali mette in guardia, come le chiacchiere e il lamento. Vorrei chiudere questo breve excursus panoramico sulla lingua di Papa Francesco facendo un cenno alla tendenza a creare neologismi. Nella già citata intervista con padre Antonio Spadaro sulla Civiltà Cattolica, ad esempio, Papa Bergoglio ha detto: «La preghiera è sempre per me una preghiera memoriosa, piena di memoria». Si tratta di un neologismo che esprime bene come sia la preghiera. Memoria di una presenza, dei gesti operati dal Signore nella nostra vita e del fatto che io sì posso dimenticarmi del Signore, ma so che Lui non si dimentica mai di me. So che il Signore ha sempre memoria di me. Si può ricordare qui anche il verbo spagnolo primarear, usato per meglio rendere il fatto che Dio viene prima e anticipa ogni azione umana. La disposizione a creare neologismi è sinonimo di due cose. Primo, per Papa Francesco, la creatività è una componente che non viene mai esclusa, anzi viene sprigionata in ogni autentica dinamica missionaria e pastorale. Non si tratta di inventare cose nuove in maniera artificiosa, con il rischio di ingombrare la vita di nuovi impegni e di pesi logoranti, ma piuttosto di trovare vie sempre nuove per annunciare il Vangelo e far percepire l'amore di Cristo per gli uomini e le donne del tempo presente, così come sono. E secondo, l'operare di Dio nella realtà avviene in modi che a volte si possono esprimere meglio con parole nuove che l'esperienza fa germinare. Ci troviamo così coinvolti in un sommovimento che, scompaginando la vita, finisce per forza con lo scompaginare anche la lingua. Vorrei adesso scegliere e commentare brevemente quattro espressioni del Papa Francesco, ben consapevole di tralasciarne molte altre che ognuno di noi avrebbe desiderato in cuor suo sentire evocare, ma dobbiamo essere fedeli alla consegna del Papa stesso, che ci ricordava il padre Spadaro: predicare non con la lunghezza dei discorsi ma con la vita, no? Quindi ci limitiamo soltanto ad alcune parole. E la prima parola che Papa Francesco ha usato da subito e senza esitazioni è la parola tenerezza. Ha delineato questa virtù, questo atteggiamento di cui non ci dobbiamo mai vergognare, nonostante i nostri anni, già nell'omelia dell'inizio del Ministero Petrino il 19 marzo 2013, festa di San Giuseppe. Cito: custodire il creato, ogni uomo e ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e di amore, e aprire l'orizzonte della speranza, e aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, e portare il calore della speranza. E per il credente, per noi cristiani, come Abramo, come San Giuseppe, la speranza che portiamo all'orizzonte di Dio che ci è stato aperto in Cristo è fondata sulla roccia che è Dio. La tenerezza, questo suggerisce Papa Francesco, è il sentimento che noi uomini facciamo nascere nel cuore stesso di Dio, coi nostri limiti, con le nostre fragilità, coi nostri tentativi anche imperfetti di mostrargli il nostro amore, anche coi nostri capricci. Per tenerezza Lui consola il suo popolo e ricrea le cose che sembrano perdute, risana ciò che è frantumato, fa rifiorire ciò che era pizzito. E la Chiesa, aggiunge il Papa, non si stanca di dire che questa ricreazione è più meravigliosa della creazione. Il Signore consola il suo popolo con tenerezza. Dio, l'Onnipotente, non ha paura della tenerezza. Lui si fa tenerezza, si fa bambino, si fa piccolo. E la tenerezza è il tratto proprio dell'operare di Gesù nel Vangelo, con gli Apostoli, con la Maddalena, con i discepoli di Emmaus. A tutti Gesù si avvicina con tenerezza e così ci fa andare avanti, ci dà speranza. Quando il riverbero di questa tenerezza di Dio e di suo Figlio brilla nell'ordito della vita quotidiana, c'è più luce per tutti, più respiro, è più facile ripartire. Questo fa intravedere Papa Francesco quando invita tutti a ripetere ogni giorno coi propri cari le tre parole che secondo lui aiutano a preservare l'umanità di ogni convivenza: scusa, permesso e grazie. Tre espressioni usate molto raramente oggi nei rapporti interpersonali. La seconda parola del lessico di Papa Francesco a cui voglio accennare è misericordia. Lui stesso lo affermò fin dalla sua prima omelia domenicale da Papa nella parrocchia vaticana di Sant'Anna. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore, la misericordia. Lui stesso l'ha detto: io non sono venuto per i giusti si giustificano da soli, io sono venuto per i peccatori. Ed è nella misericordia che si manifesta l'onnipotenza di Dio. La misericordia, scrive San Tommaso d'Aquino, citato da Papa Francesco nel paragrafo 37 di Evangelii Gaudium, è in se stessa la più grande delle virtù. Ad essa spetta di sollevare le miserie altrui, e questo, spiega San Tommaso, è compito specialmente di chi è superiore. Ecco perché si dice che è proprio di Dio usare misericordia. La misericordia degli uomini può fiorire dall'esperienza della misericordia di Dio. Fiorisce gratuitamente nel cuore convertito dall'amore misericordioso, che abbia realmente assaporato la misericordia del Padre. La misericordia è la controprova dell'amore, che quando è vissuto in profondità trasfigura l'atteggiamento verso se stessi, verso gli altri e verso Dio. Che amore sarebbe quello verso il povero, verso il sofferente, verso il fratello, verso i parenti, verso il coniuge, se non ci fosse la misericordia? Anche l'amore più sincero, se non diventa un habitus di accoglienza e misericordia verso i limiti e le fragilità di se stessi e del prossimo, può diventare col tempo una forma mascherata di egoismo. Sempre San Tommaso spiegava che l'habitus non è un'azione ripetitiva, ma è una modalità creativa e sempre nuova di vivere una virtù e renderla piena. Papa Francesco, con i suoi continui gesti di attenzione nei confronti dei malati, dei sofferenti, di chi è stato ferito dalla vita, sembra invitare i cristiani a fare questa verifica. La misericordia che ci troviamo a vivere racconta molto della nostra fede e ci dice quanto ci stiamo abbandonando all'amore di Dio, quanto per questo desideriamo ridare amore. La misericordia dice anche in che misura l'amore ci ha cambiati fino a produrre in noi atteggiamento di apertura e compassione per l'altro. Così lui ricorda a tutti nell'Evangelii Gaudium che bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. Ai sacerdoti in particolare ricorda che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile, perché un piccolo passo in mezzo a grandi limiti umani può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell'amore salvifico di Dio che opera misteriosamente in ogni persona al di là dei suoi difetti e delle sue cadute. In questo modo suggerisce a tutti anche qual è il volto autentico della Chiesa. La comunità evangelizzatrice, scrive ancora nella sua esortazione apostolica, documento chiave del suo pontificato, sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, sa andare incontro, sa cercare lontani e arriva agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dall'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Nella sua esperienza di pastore, Jorge Mario Bergoglio ha sperimentato tante volte che proprio l'esperienza di essere abbracciati dalla misericordia che perdona può risvegliare nelle coscienze degli uomini e delle donne di oggi la percezione del male, del peccato che indurisce il cuore e del bene che attrae e rende felici. Lo sguardo proprio del cristiano sulla vita morale fiorisce dall'esperienza gratuita della misericordia. Per questo i discorsi sulle questioni etiche che non tengono conto di tale sorgente o che addirittura dileggiano la misericordia facendo della caricatura e etichettandola come buonismo, non colgono mai le dinamiche proprie innescate nel mondo dai fatti annunciati. annunciati nel Vangelo. La terza parola su cui vorrei soffermarmi brevemente è la parola verità. Ad essa Papa Francesco ha dedicato espressioni eloquenti fin nell'incontro avuto 3 giorni dopo la sua elezione papale con i rappresentanti del mondo dei media, e ce ne sono qui anche oggi. Già in quelle occasioni il Papa ha sottolineato il legame inestricabile tra i termini di quella che ha definito anche come una triade esistenziale: la verità, la bellezza e la bontà. Il vostro lavoro, ha detto quella volta, necessita di studio, di sensibilità, di esperienza, come tante altre professioni, ma comporta una particolare attenzione nei confronti della verità, della bontà e della bellezza. E questo ci rende particolarmente vicini, perché la Chiesa esiste per comunicare proprio questo: la verità, la bontà e la bellezza in persona. Dovrebbe apparire chiaramente che siamo chiamati tutti non a comunicare noi stessi, ma questa triade esistenziale che conformano verità, bontà e bellezza. La potente azione e influenza dei mezzi di comunicazione nella società e nella cultura, ma anche delle nostre stesse parole, possono aiutare a crescere, o al contrario possono disorientare. Quando le immagini e le informazioni veicolate hanno come unico scopo quello di indurre il consumo o manipolare le persone per approfittarsi di esse, siamo di fronte ad un vero assalto, ad un golpe, a un'estetica disintegrante che fa perdere la speranza nella possibilità di scoprire la verità e operare il bene comune. Ciò che si attende da persone intellettualmente oneste è un parlare semplice e asciutto, è una parola di verità con amore. Non è onesto agire con l'alterazione delle parole, adulando per circuire le intenzioni di altri, così da ingannare e persuadere in danno del prossimo. In questo senso vi è per il Papa un nesso indissolubile tra ipocrisia e corruzione, che passa anche per l'artificio di piegare i significati delle azioni e delle parole, adulterando la semplicità del loro significato. La testimonianza resa alla verità fa parte del compito affidato alla Chiesa per liberare gli uomini dalla menzogna. Così scrive Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: così come l'organicità tra le virtù impedisce di escludere qualcuna di esse dall'ideale cristiano, nessuna verità è negata. Non bisogna mutilare l'integralità del messaggio del Vangelo. Inoltre, ogni verità si comprende meglio se la si mette in relazione con l'armoniosa totalità del messaggio cristiano. E in questo contesto tutte le verità hanno la loro importanza e si illuminano reciprocamente. Quando la predicazione fedele al Vangelo si manifesta con chiarezza la centralità di alcune verità e risulta chiaro che la predicazione morale cristiana non è un'etica stoica e più che un'ascesi, non è una mera filosofia pratica né un catalogo di peccati ed errori. Infine, la quarta parola su cui mi soffermo è giustizia. Finché ognuno cerca di accumulare per sé, ha detto Papa Francesco all'Angelus del 2 marzo 2014, non ci sarà mai giustizia. Dobbiamo sentire bene questo. Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella provvidenza di Dio, cerchiamo insieme il suo regno, allora nessuno mancherà il necessario per vivere dignitosamente. A ben guardare, la conversione cui ci richiama il Papa Francesco, credenti e non, è quella della centralità di ogni uomo e di ogni donna. Se l'uomo è il metro che misura il nostro agire, se insomma l'uomo è la variabile indipendente, allora è tutto il resto che deve cambiare e riordinarsi a questo fine. Amore e povertà senza giustizia non colmano la misura di grazia promessa dal Vangelo. A che servirebbe una Chiesa magari più austera, ma che non impegnasse i suoi membri a lavorare giorno per giorno nella concretezza delle situazioni per restituire ai poveri e ancor più ai miseri e ai dei dannati della terra la loro dignità, anche economica, di cittadini del mondo che vivono nel proprio lavoro. Il Papa mette in gioco la testimonianza evangelica dei credenti anche nelle battaglie per la giustizia sociale, una giustizia che riguarda miliardi di uomini e di donne, le moltitudini dei diseredati che vivono spesso da invisibili anche nei paesi del nord ricco del mondo. Nasce da qui come riflesso anche un'acutezza di giudizio critico sulle pulsioni, da lui definite idolatriche, che muovono i meccanismi della speculazione economica e finanziaria. Le pulsioni che tornano ad adorare l'idolo del denaro, che si produce da se stesso e per questo non ha remore a trasformare in disoccupati milioni di lavoratori, inoculando in tutto il corpo sociale quelle che Papa Bergoglio ha definito come cultura dello scarto e globalizzazione dell'indifferenza. Secondo Papa Francesco, l'ingiustizia e gli squilibri sono il vaso di Pandora di tutti i conflitti. E quando la società locale, nazionale o mondiale abbandona nella periferia una parte di sé, ha scritto nell'Evangelii Gaudium, non vi saranno programmi politici né forze dell'ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità. Le parole di Papa Francesco sono un patrimonio apprezzato e riconosciuto da molti, anche da molti che non hanno e non vivono il dono della fede. In molti percepiscono che le sue parole prefigurano il profilo di una città affidabile, dove confluiscono suggestioni teologiche, culturali e politiche. Teologiche perché essa si può fondare sull'esperienza della fedeltà di Dio all'intero genere umano e al cammino di edificazione e preparazione di un luogo nel quale l'uomo possa abitare insieme con gli altri. Culturale perché dimostra la menzogna e l'inaffidabilità del modello che, intendendo l'alterità come estraneità, non può che produrre la convinzione che l'unità fra gli uomini sia concepibile solo come fondata sull'utilità, sulla composizione degli interessi o sulla paura, tracciando senza requie nel corpo vivo dell'umanità linee di frattura e di conflitto che in molte parti del mondo continuano purtroppo ad alimentare la violenza e lo scontro fra comunità e stati. Ben diversa è l'architettura dei rapporti che si costruisce nella tensione verso il bene comune, alimentata dalla gioia che la semplice presenza dell'altro può suscitare, attenta dunque a cogliere e integrare anche chi è straniero. La città abitabile è infine una proposta politica, perché impegna il servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace. Puntate sugli alti ideali, non fatevi rubare la speranza. Sono le frasi che il Papa ripete spesso ai giovani, volendo sottolineare che guardare in alto significa dare valore anche alle piccole cose. Così si può uscire dalla crisi, eliminare i conflitti, coltivare la speranza di costruire un mondo migliore, basato sulla cultura del dialogo, della trasparenza, della legalità, della giustizia, della solidarietà e dell'abbattimento delle barriere culturali. Le sollecitazioni del Papa infondono coraggio, ma sono anche uno stimolo quando, ad esempio, invita a non avere paura di andare controcorrente, sottraendosi alla dominante cultura dell'egoismo, dell'indifferenza, dell'esteriorità e del vuoto protagonismo. È soprattutto ai giovani che il Papa si rivolge, e io mi unisco a lui in questo momento quando tratta di speranza. Papa Francesco difende i giovani, indicandoli come le prime vittime dei processi di mercificazione dominati dall'egoismo. Ma saranno proprio loro che potranno leggere l'attuale crisi come opportunità per immaginare un mondo migliore e con costante impegno realizzarlo. Alle nuove generazioni è affidata la possibilità di affrancarsi dalla mediocrità dei comportamenti, delineando anche un modello socio-economico che riconosca l'autentico significato di sviluppo. Dobbiamo proporre l'orizzonte che Dio ci ha messo nel cuore e per farlo, ha detto il Papa, è necessario uscire da noi stessi. Quindi non accontentatevi di stare con il vostro piccolo gruppo, ma ascoltate le preoccupazioni e prendetevi cura delle ansie di tutti i giovani. È vero, voi giovani siete una minoranza, anche il lievito è solo una piccola parte, ma serve a far fermentare la pasta. Anche il sale è una minoranza, ma aggiunge sapore e aiuta a mantenere la cottura. Allora integratevi, parlate e ascoltate. Suggerite orizzonti veri, non quelli a breve termine. Dovete avere spirito missionario e mescolarvi con gli altri. Come ho già detto in molte occasioni, voglio una chiesa per le strade, che esca fuori da se stessa. Ecco, voglio anche i giovani per le strade, giovani mescolati e incorporati nella vita quotidiana di altri giovani, ragazzi che parlano di Gesù Cristo, che con Lui vivono e possono trasmettere il Suo esempio agli altri. Ritorno in conclusione alla domanda già citata che Papa Francesco ha rivolto con cuore di padre ai 5 ragazzi che dal Belgio erano venuti a intervistarlo nel Palazzo Apostolico. Dov'è il tuo tesoro? Su quale tesoro riposa il tuo cuore? Con il Papa anch'io ripeto qui questa domanda, non una domanda originale, ma presa dal Vangelo, ma è la domanda giusta in questo momento e sempre, non solo per i giovani e le giovani, ma anche per noi che non siamo più ragazzi. È la domanda di Gesù che oggi raggiunge ciascuno di noi anche attraverso le parole di Papa Francesco. Il cammino che abbiamo davanti dipende anche da come ognuno di noi risponderà a questa domanda. Grazie per la pazienza e per l'attenzione.